il rock di B-Radio. E come mai fate supporto a questi dinosauri del rock? Ah, è nata questa... In senso positivo, non negativo, assolutamente. Perché è nata questa simpatia proprio perché loro ci hanno sentito suonare e hanno detto questi fanno il caso nostro. Ah, perfetto. Hanno sentito il Sound 60. Esatto, il Sound 60. A proposito del Sound 60, vi elenco i gruppi che c'erano a Padova a quell'epoca. Ed erano, oltre ai Delfini, i Ranger, Sound, i ragazzi dei capelli verdi, i Los Gringos, le Iene, i Solitari, i Royals, il GB Group, i Plebei, i Comedians, i Rubber Soul, i Magnifici, i Dragoni, i Kaisers, i Serpenti e le Catene. Te le ricordi questi? No? L'80% di GB me li ricordo, alcuni proprio non me li ricordo, non vorrei adesso io fare torto. Non le ho mai, i Dragoni me li ricordo bene, per esempio. Sì. E certi non voglio adesso sminuire, quindi non dico quelli che non ma il genere ricordo. Era vicino al vostro oppure un po' diverso, tipo le Catene o i Dragoni, visto che te li ricordi? Ma noi con i Dragoni abbiamo fatto una sfida addirittura, c'era una grandissima rivalità con i Dragoni, abbiamo fatto una sfida al Circolo Bancari, la gente intervenuta doveva scegliere noi e loro, e come abbiamo vinto noi per la votazione del pubblico con i Dragoni. Perfetto. Oh, questo mi fa da ridere adesso pensare a queste cose. Sono cose, c'erano queste cose in quegli anni. Quattro del teschio che... Qua devi chiedere a Serena che forse... Franco, dove sei Franco? Perché lui va a cercare... Avvicinati al microfono. I Plebei me li ricordo. Poi scusa, gli altri... Adesso ti ricito, sono i Plebei, i Serpenti, i Kaisers, i Dragoni, i Magnifici. I Magnifici te li ricordi? I Magnifici sì. Benissimo, i Magnifici. Forse nel nostro calendario non so... Forse nel nostro calendario non sono citati. Del calendario vostro, chi sono citati? Ce ne sono magnifici. Più di 200, saranno 250 i gruppi. Sono padovani, dici? Ah, sono sì. Padova e provincia. Cosa vuol dire Bacchiglione Beat? Perché lo chiamavano la Liverpool d'Italia, Padova, assieme a Mestre, assieme a Marghera? Secondo partiva te. Dal Mersey Beat. Dal Mersey Beat, sì. Ma che noi avevamo Bacchiglione allora, chiaramente. E qua è venuto fuori il Bacchiglione. È un nostro amico, la leggenda. La leggenda è questa, la leggenda è questa, chiaramente. Però all'epoca... Era così. Si è scritto del Bacchiglione Beat, sì. Il nostro amico Alcide Boaretto, che era il nostro corrispondente e che lui era in contatto diretto con le varie testate dell'epoca specializzate, tipo il Big Ciao Amici. C'era Big Ciao Amici, famoso, poi è diventato Ciao 2001. Giovani, lui scriveva già allora del Bacchiglione Beat. Vanta qui abbiamo una compilation di una casa discografica di Modena, mi pare, cita. È milanese, però il più grande, sì, è milanese, hai ragione, non è questa, è un'altra casa discografica, si cita appunto il Bacchiglione Beat praticamente, è una cosa molto importante. Un'altra cosa volevo chiedervi, è stato difficile incidere un disco per una casa discografica? Adesso è difficilissimo. Beh, guarda, noi abbiamo vinto questo concorso, abbiamo partecipato a un sacco di concorsi in quegli anni, dei concorsi di patronati, c'erano i concorsi Enal che abbiamo vinto, siamo andati fino a Messina, sì? In treno, c'è un viaggio allucinante, abbiamo vinto questo concorso, però... Questo Canto Italia ci ha fatto fare il disco, perché chi avesse vinto quella volta il Canto Italia avrebbe poi fatto il disco, e quindi abbiamo fatto questo disco, è stato un miracolo secondo me. Adesso c'è Music Farm, una volta c'erano queste, insomma. Sì. Dopo, dietro a questa partecipazione, abbiamo fatto conoscere il nostro amico Franco Serena, abbiamo proposto i Ranger Salve, chiaramente sono piaciuti subito, hanno fatto il disco. Franco Serena aveva una tipologia un po' più rocchettara rispetto a voi, no? Non è così, Franco? Vai sì, al microfono. Sì, sicuramente sì, nei dischi sì, live no, perché noi... È ancora adesso un po' più rocchettaro. Noi dei dischi, noi live avevamo una personalità completamente diversa da quelli dischi, cioè noi cantavamo, io cantavo molti brani di Rolling Stones e facevamo tutti i Beatles, quindi... Chiaramente. Mentre eravamo un po' costretti, diciamo così, dalla carica grafica a questa italianità, diciamo, della nostra produzione. Chi era il produttore all'epoca, Franco? Era Carmine De Benedictis. Carmine De Benedictis, ho capito. E i Royals come si inserivano in questo dualismo? Tu hai già parlato prima, però musicalmente parlando, Lele. Chiedo scusa. Dimmi, avvicini. I Royals nascevano prima dei Ranger Sound, ragazzi. Già loro avevano un buon nome quando ancora i Ranger Sound non esistevano. Perciò diciamo che poi sono fioriti o cresciuti piccolini, ma loro erano due nomi molto importanti nella scena padovana. Quindi praticamente vi siete inseriti. Però avete fatto una musica leggermente diversa, secondo me. Non so se sei d'accordo, Lel. Ma noi siamo partiti col primo disco, era un beat classico, beat italiano, perché le canzoni poi le ho composte io, e quindi testo e musica. E siamo partiti molto bene, era un bellissimo, due bellissime canzoni, due bellissime... pezzi di beat, e poi ci siamo un po' modificati. Il secondo disco era un po' folk. Addirittura era una canzone che Lani mi aveva chiesto di scrivere per Cher. Cher veniva al Festa di Sanremo, certo, e mi avevano chiesto di, siccome io scrivo le canzoni, loro sapevano che io scrivevo di qua di là, facevo queste cose, perché poi mi chiamavano, ho fatto la seconda voce ai Nomadi, sì, certo, e Maurizio Mandelli mi chiamava Giovanni Lennino, facevo, capito, mi davo i nastrini con le canzoni cantate con inglese maccheronico, esatto, maccheronico. E poi abbiamo fatto questo secondo disco un po' folk, un po' forse era un momento di difficile anche della musica, non si capiva dove andare, no? Era così, prima era molto più determinata. E poi praticamente, naturalmente avendo questo produttore di Modena, essendo amici dell'Equipe 84, di Nomadi, perché poi Maurizio Mandelli era sempre in sala di registrazione con noi, e, avevamo lo stesso sarto che faceva gli stessi vestiti ai Nomadi, a noi. E ricordiamo che l'Equipe aveva una famosa Rolls Royce come quella di John Lennon, e aveva un negozio esattamente come i Beatles, aveva anche loro un negozio di vestiti e di altre cose. Ecco, e parlami di questo vostro aggancio con la traduzione di Missy Robinson da parte di Francesco Guccini. Mi pare che sia, io abbia fatto solo due traduzioni, lui una è per la per due voi. O tre, sì, al massimo, sì. Una è per voi, come mai per voi, perché eravate della EMI? Noi perché eravamo della EMI, perché c'era questo Bacchelli che aveva un potere, sì, che, certo, era il produttore dei Nomadi, aveva un certo successo, ci sapeva fare, era di Modena anche lui, e naturalmente era il nipote del grande scrittore, certo, no? Che quello è una cosa molto, sì, importante, sì, anche è un certo giro praticamente, esatto. E la casa discografica ha scelto Mrs. Robinson e hanno proposto a Francesco Guccini, diciamo che è stata tutta una cosa gestita molto dalla casa discografica. E facciamo un flash, cominciamo il primo pezzo. Perché Lele i Bee Gees? E come mai un pezzo molto particolare musicalmente parlando, che c'è adesso da proporci praticamente, il New York pezzo, New York Mining Disaster 1941, esattamente, mi pare che sia da Odessa questo pezzo qua. Sì, sì, ed è forse uno dei loro primi pezzi che ha avuto successo, poi parla di un disastro minerale, esattamente, non so, questo pezzo mi ha molto colpito, tra l'altro è anche registrato, ascoltandolo ancora ora, con delle voci molto crude, si sono raffinati successivamente, ma ha sempre un fascino molto particolare, un pezzo suonato in maniera essenziale, e forse la tragedia, sì, esatto, quello ha influito a questa sonorità. Bene, siete pronti? Lo sentiamo assieme adesso, allora.